9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buon 29 di febbraio, anno bisesto questo 29, quindi è ovvio che nell'anno bisesto i Doors ci stanno bene, e ci stanno bene prima di arrivare rapidissimamente, oggi sarò telegrafico nella cosa europea perché abbiamo poi gli ospiti che ci danno pochi minuti e bisogna approfittarne. Al tema del giorno, lo sapete, sono i costi della sanità che la Lombardia rende noti ai pazienti, e vedremo come, perché e che si reazioni suscita. Intanto, perché i Doors in Europa? Perché c'è un'altra novità non troppo positiva. Io non faccio il pessimista a oltranza, ma intanto, come vi avevo detto ieri prendendolo dalla stampa portoghese, il vertice che doveva tenersi venerdì europeo sul finanziamento dell'Unione di ESM e FSF è saltato. Era vero ciò che diceva il generale portoghese: i greci da una parte, i tedeschi da una parte, che sono contrari per il momento a mettere mano all'unificazione dei due strumenti e all'aumento della loro dotazione finanziaria, e poi anche un'altra novità hanno impedito il vertice. Qual è la nuova novità? È quella di cui potete approfondire sull'Irish Times, perché gli irlandesi hanno deciso il referendum sull'ESM, e questo referendum è un altro ostacolino, mica da ridere, perché se gli irlandesi diranno di no all'ESM ci risiamo con le discussioni dall'inizio sul contrasto tra democrazia, suffragio universale e strumenti straordinari di sostegno alla crisi degli eurodeboli. Per capirci, l'ultimo sondaggio fatto in Irlanda, in cui agli irlandesi veniva chiesto intorno al supporto agli eurodeboli, vedevano il 40% favorevole, il 36% contrario, il 24% indecisi. Quindi bisognerà vedere come va alla fine questo voto, in altre parole. Dopodiché il Parlamento olandese ha approvato, come il Bundestag il giorno prima, il salvataggio greco, e il Parlamento greco sta andando avanti su ulteriori tagli alla difesa, e il governo greco ha raggiunto un accordo sul salario minimo, esattamente come vi avevamo detto settimane fa, quindi un taglio del 22% sul precedente standard del salario minimo, e per quelli che hanno 25 anni un taglio del 32%. In un'intervista di Welt, Jean-Claude Juncker lancia una proposta che è una vecchia idea tedesca, in realtà, quello di una specie di commissario per la Grecia, di un membro della commissione per la Grecia, perché detto così, commissario per la Grecia significa un'altra cosa. In realtà la proposta tedesca apposta vive di questa ambiguità del nome, per dare coordinamento diretto agli sforzi straordinari del governo greco e a quelli del controllo della commissione, un aspetto di attaché diretto, che naturalmente dovrebbe essere la formula attraverso la quale tutti gli eurodeboli poi dovrebbero riferire in tempo immediato alla Commissione. Intanto Financial Times riporta che la Troica ha un report positivo sul Portogallo, che dovrebbe essere reso noto, perché questo è il terzo trimestre successivo in cui il Portogallo è sotto scrutinio della Troica, e il Portogallo ha ricevuto già 50 miliardi di euro di sostegni, cioè il 62% del suo programma totale. Il deficit del 2011 dovrebbe chiudersi al 4% del PIL, quindi molto meglio di quello spagnolo, mentre invece la Spagna, l'abbiamo visto ieri, ha un deficit ben peggio di quello che aveva convenuto, e su questo quindi il paese e altri giornali spagnoli si interrogano su cosa potrà avvenire se alla Spagna verrà chiesto adesso di fare sforzi straordinari da questo punto di vista. Per esempio Wolfgang Munchau sul Financial Times Deutschland, nel suo editoriale sul Financial Times Deutschland, dice che gli spagnoli devono stare attenti, perché se davvero si mettessero a realizzare in tempi brevissimi come manovre straordinarie, un taglio di altri 2 punti di PIL del deficit, perché per raggiungere il 4,4 che avevano comunque con l'Europa, invece del 6,5, le conseguenze su una Spagna così già piegata in ginocchio sarebbero molto molto negative. Quindi Wolfgang Munchau dice è meglio che ve ne guardiate, cari amici spagnoli, ed è meglio che da Bruxelles e da Berlino non vi si chieda di fare veramente miracoli straordinari, perché non è proprio il caso. Infine, ultimo flash, questa volta sulle elezioni in Francia che si avvicinano, sondaggio di François, e secondo il quotidiano del pomeriggio Hollande è ancora in testa al primo turno, 28%, seguito da Nicolas Sarkozy al 27%, Marine Le Pen al 18% e François Bayrou al 12%. Per il secondo turno, nell'ipotesi quindi in cui al secondo turno andassero Hollande e oramai distaccato di poco Sarkozy, vincerebbe tuttavia sempre Hollande, con un vantaggio del 55% contro il 45% di Sarkozy. Sarkozy sul secondo turno ha guadagnato solo un punto nelle ultime 2 settimane. E andiamo al punto di oggi invece, perché il punto è questo: la sanità in Lombardia ha deciso di informare i pazienti del costo generale al sistema e quindi anche al contribuente dei trattamenti a cui viene sottoposto. E, si riceve una lettera, si viene informati. È un'iniziativa che ha suscitato una reazione negativa da parte dell'ordine dei medici. Ho pensato che la cosa migliore è innanzitutto approfittare di pochi minuti che ha a disposizione la giornata d'inferno dell'assessore alla sanità alla regione Lombardia, Luciano Bresciani, che è qui con noi, e gli chiedo come funzionerà questo servizio aggiuntivo e perché lo avete deciso. Buongiorno e grazie intanto, assessore. Buongiorno, intanto ringrazio lei, saluto lei, saluto tutti gli ascoltatori. La prego di riporre la domanda, perché sono entrato con un paracadute e di conseguenza adesso, mentre piegavo il paracadute, lei mi faceva la domanda. Molto semplice. Mi scuso per questo. No, si figuri. Le chiedevo da dove nasce questa decisione dell'informativa e a chi verrà data, proprio a tutti i pazienti, e sulla base di che cosa? Del costo dei beni e dei servizi intermedi? Del capito, costo finale, ecco. Ho capito, l'iniziativa che dice il 1° marzo, lei dice che cioè noi informiamo il paziente. Allora nasce da un bisogno, secondo me, di trasparenza, di presentare al cittadino un servizio reso e come abbiamo utilizzato i soldi che lui ha messo a disposizione con le tasse per il servizio sanitario, con ovviamente il riparto sulla nostra regione. È una trasparenza, la prestazione che tu hai avuto, vuol dire, è una prestazione che in cui la comunità ha finanziato questa cifra con le sue tasse e tu per una corresponsabilità hai finanziato questo ticket regionale con questo valore e lo Stato ha chiesto un ticket statale per coprire i famosi 850 e giù di lì milioni che non ha posto a disposizione del finanziamento. Quindi 3 cifre per una prestazione che ovviamente richiede il ticket, che vuol dire per i nostri cittadini la cifra pura della compartecipazione del cittadino nel 70% dei casi, perché abbiamo il 70% di esenti dal ticket, per varie motivazioni che adesso non le sto a neccare perché diventa troppo tecnica la questione, e laddove invece non c'è esenzione, là noi precisiamo come abbiamo applicato anche la tecnica del ticket che ci chiedeva lo Stato di 10 euro pro capite, che noi abbiamo trasformato invece in un modo più complesso ma più efficace, che è un ticket che recupera ovviamente tutta la cifra che lo Stato ha deciso di recuperare per Regione Lombardia con questa procedura, ma posto in termini proporzionali, cioè una prestazione vale 100, il ticket è il 30% della prestazione, quindi se vale 5 il ticket è 0, se vale 10 il ticket è 3, se vale 20 il ticket è 6, capisce? In modo da rendere proporzionale questa tassa e non fare in modo che applicando longitudinalmente, in modo longitudinale, il ticket di 10 euro per un esame che costa 10, il cittadino ne mette 10, se costa 3, scusi già. Il cittadino pone 10 euro di ticket, che vuol dire che il valore della prestazione diventa 13 e può essere sicuramente una prestazione che eroga un altro erogatore non accreditato nel sistema regionale per un valore di 7 con un guadagno insomma reciproco e una perdita del sistema sanitario regionale. Allora, questo se ho capito bene, siccome 7 su 10 dei cittadini pazienti sono esenti per criteri sociali, economici, eccetera, dal TIM, mentre poi c'è la parte di 10 euro addizionale che vale per tutti, serve per tutte le fasce, sia per quegli esenti sia per quelli obbligati invece al ticket o contributo sociale, a capire in che margini quello che hanno ottenuto sta, sia rispetto al loro finanziamento sia quanto è costato davvero, quindi agli altri. Certo, come abbiamo usato i loro soldi. Allora, il punto però è, ma viene fatto il conto esattamente sui trattamenti di ciascuno, su una media, oppure proprio personalizzato? No, sul valore effettivo della prestazione, delle prestazioni, diciamo, del processo prestazionale che è stato erogato al paziente, è personalizzato. Lettera di dimissione, alla fine della lettera di dimissione, o all'interno, ma soprattutto alla fine perché esce dall'aspetto, diciamo, del rapporto clinico, c'è scritto questa prestazione, la TAC è costata 246 euro, il ticket che tu hai erogato è 36, quello dello Stato è 30, parliamo. Ecco. E quindi il cittadino sa perfettamente le fasce di contribuzione e io credo che sia giusto. Un consiglio di amministrazione, il cittadino fa parte del consiglio di amministrazione, no? Della regione Lombardia, quando vota manda a casa gli esecutori, diciamo, del sistema. Un consiglio di amministrazione chiede come è usato i soldi, quindi è la massima trasparenza del sistema. Secondo me è un tributo che dobbiamo dare al cittadino. Certo, no, non c'è niente di più. E sicuramente è uno stimolo anche perché se capisci con quanto il cittadino contribuisce, prima di tutto hai un senso maggiore della comunità perché insomma ti hanno dato una mano, ecco, in tutto sommato, diversamente da altre civiltà che stanno oltre l'oceano, per esempio, no? Ed è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, attenzione però, che se tu fai due TAC non solo spendi inutilmente i tuoi soldi, ma chiedi alla comunità di spendere inutilmente i soldi. Il valore che tu chiedi come spesa inutile è anche questa, quindi è anche una logica di contenimento, ma non è l'elemento principale, è il senso del coinvolgimento della comunità in questo tipo di amministrazione. Senta, assessore, sul totale dei costi delle forniture del recinto esteso pubblica amministrazione, quindi centrale e autonomie, che sono più o meno 150-160 miliardi di euro nel bilancio annuale delle pubbliche amministrazioni, quelli per l'acquisizione di beni e servizi intermedi, le forniture appunto della sanità, sono più o meno poco più della metà, quindi un bel po'. Sul totale di quella cifra ci sono tante polemiche perché nei 5 anni prima della crisi è aumentata del 50%. Domanda, ma in Lombardia e in quante altre regioni oltre Lombardia, lei naturalmente risponde della Lombardia, le forniture per le aziende ospedaliere, per le aziende sanitarie, non si può centralizzarle con un'unica centrale di standardizzazione, di incrocio domanda-offerta che naturalmente consenta per grandi quantitativi sinergie, controlli, evitare che ci siano circuiti di imprese amiche, degli amici, eccetera, eccetera, eccetera. Come funziona? È proprio vero che bisogna avere gli acquisti in ogni azienda perché solo l'amministratore di ciascuna azienda è in grado di sapere davvero di che cosa c'è bisogno con standard diversi, perché puzza un po', ovviamente, detta così. No, è interessante, grazie, ha posto molto bene la domanda. La risposta è questa, noi abbiamo la centrale acquisti operativa, non da oggi, ma da un paio d'anni, è in curva di apprendimento. Cioè la centrale acquisti sta imparando come fare in modo sempre più appropriato gli acquisti. Lei sa che la curva di apprendimento dice questo è il risultato, devo correggerlo perché c'è qualche imperfezione. Insomma, è sempre, si impara nella vita, no? Il miglioramento. Ecco, la centrale acquisti, diciamo, ne faccio un grosso schema, la centrale acquisti lavora proprio come dice lei, cioè chiediamo alle quali sono i volumi di le prestazioni di cui hanno bisogno con una priorità volumetrica. Le più alte volumetrie sono quelle che interessano le centrali acquisti perché è ovvio che l'economia di scala si fa su volumetrie alti. Si fa l'avanti, io le dico in modo molto semplice perché in effetti è più articolato, si fa il bando, il concorso e su quei determinati prodotti con quelle caratteristiche, quelle specificità che vengono definite ovviamente a livello delle aziende e che le aziende ovviamente di cui si servono le aziende dei professionisti che sono operativi nelle aziende, si hanno le specifiche, si fa la gara e la gara dice che quel prodotto costa 100. questo punto si informano le aziende che quel prodotto costa 100. L'azienda è libera di accedere a quel prodotto che costa 100 o è libera di accedere a quello stesso prodotto con un consorzio diverso, una gara diversa che voglia fare, e però l'acquista solo se è inferiore a 100 se è inferiore a 100. Il prodotto, sì. Se è inferiore, certamente. Allora in questo caso si crea una sorta di competizione a livello della centrale acquisti e diciamo della periferia, e si dà quello vuole la nostra legge generale, si dà al direttore generale la piena libertà di decidere, però di decidere nell'ambito dell'utilità pubblica e della sostenibilità della spesa. Non so se è chiaro, ma sì no, io spero di sì, anche a chi non è un tecnico e ci ascolta da casa. Ma questa curva di apprendimento quanto dura ancora prima di mettere in perfetta funzione? La curva di apprendimento dura sempre, perché tutti i giorni lei impara a essere migliore del giorno prima, no? Chiaro. Allora, io ho voluto porre questo discorso della curva d'apprendimento per rendere noto che quando lei entra nel taglio dei costi impropri, lei è in progressivo apprendimento, certo. Perché tutti i giorni scopre che è un costo improprio. Volevo dire questo nell'ambito della centrale acquisti. Funziona, perché noi abbiamo ridotto del 20% i costi dei prodotti, capisci? 20%. Magari fosse un obiettivo realizzabile per tutta la sanità nazionale, magari. Mi è sfuggita la domanda. Allora, aspetti un secondo, rimanga con noi perché so che tra pochi minuti ci deve lasciare, però vorrei che ascoltasse la reazione che il Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano ha dato già sulla stampa, ma è qui con noi Roberto Carlo Rossi, lo ringrazio, perché a nome dell'Ordine dei Medici il Presidente non è d'accordo con questa misura dell'informativa ai pazienti. Perché, Professor Rossi? Perché diciamo, se si vuole fare una campagna di informazione sui cittadini, come posso anche dire che sia giusto, insomma, non si fa sulla singola prestazione e sul singolo esame che questo ha fatto, perché io la trovo una cosa francamente umiliante e poco etica. Invece a tutt'altro genere sarebbe fare una campagna di pubblicizzazione di quanto è di quanto si spende in Lombardia, di quanto il sistema sia all'eccellenza, perché per carità stiamo parlando sicuramente di un sistema sanitario di ottimo livello, e allora questo mi troverebbe d'accordo fare educazione sanitaria nelle scuole, mi troverebbe d'accordo andare dai cittadini a fare delle campagne di stampa come era stato fatto un po' di anni fa e dirgli non sprechiamo risorse, affidati al tuo medico che se non ti fa la ricetta della pillola o dell'esame può anche darsi che ti stia facendo un counseling corretto, perché è il tuo medico e vuole il tuo bene. Tutte cose utili che in ogni caso innescano un circolo virtuoso per quanto riguarda il discorso della spesa, e però non vanno a dire a un povero Cristo che ha avuto l'infarto, guarda però ci sei costato un sacco di soldi, insomma. Ma mi scusi un secondo, per essere proprio più chiari a chi ci ascolta, e quello che temete è che i medici siano indotti poi a risparmiare, per così dire, e quindi ad avere la pressione di un criterio improprio rispetto all'erogazione dei servizi che sono affrontati, oppure quello che temete è che poi i pazienti sul proprio caso personale dicono è come, sono pure costato questo e questo è il mio effetto, perché potrebbero essere due ipotesi diverse, ma qual è quella che vi preoccupa? Tutte e due le cose teniamo, la seconda per un discorso di carattere etico e deontologico, perché non è giusto presentare il conto un povero Cristo. Tra l'altro la gente ha perfettamente la consapevolezza che il welfare in Lombardia ha un suo costo, il sistema è in equilibrio, precario ma in equilibrio, e questo ovviamente costa in termini di ticket, in termini di addizionali eccetera eccetera. E la prima ovviamente è una cosa che ci preoccupa molto, perché poi c'è anche un terzo aspetto in realtà, la prima ci preoccupa molto perché questo potrebbe costituire una pressione indebita sui medici prescrittori, sui medici che erogano prestazioni, per dire guarda che il tuo conto, cioè hai speso tot, quindi sta attento perché stai spendendo un sacco di soldi. La terza che ci preoccupa è un aggravio ulteriore di burocrazia, perché il sistema che emette questi costi sulla lettera di dimissione piuttosto che sugli esami eccetera è un sistema come dire, semi-automatico da quello che si capisce e si vede dalle prime circolari che vanno in giro, e quindi in pratica il medico deve anche farsi carico non solo di fare una lettera di dimissione come Dio comanda, ma di occuparsi anche di questo. Allora aspetti, aspetti un secondo, resti lì perché sentiamo l'assessore. Allora qui ci sono tre rischi paventati: primo, il medico con pressioni improprie rispetto a quello che deve prescrivere e come offerta; secondo, che si alzi la conflittualità, perché a quel punto il paziente dice come, è pure costato tot e io alla fine, quindi più conflittualità, che naturalmente a quel punto si incardina sui medici, che sono coloro che devono decidere; terzo, gli adempimenti burocratici. Che dice l'assessore? Allora, alla prima risposta dico che è semplicemente un'informazione. Noi le inappropriatezze sui medici di medicina generale le segniamo perché loro non sono nella media dei costi che i cittadini presentano a livello regionale. Quindi noi usiamo un'altra via per informare i medici che sono iperprescrittori, non certo questa. Quindi assolutamente in incidente, non è assolutamente incidente, è un'informazione al cittadino, è un'informazione dovuta per la trasparenza, questo lo sentiamo. Io saluto il Presidente dell'Ordine, lui sa benissimo che io non sono d'accordo con lui, ma il dibattito è il segno della democrazia, e quindi è chiaro che io invece rispondo in questo modo: l'informare il cittadino non ha assolutamente nessun significato sul controllo dell'attività del medico, e se fossero preoccupati del fatto che questo dovrebbe comportare un abbattimento delle inappropriatezze iperprescrittive, siamo tutti felici, i cittadini sono tutti felici, capisce? Perché non gli porta via dei soldi inutili per dei costi impropri. Ma non è questo il concetto è che noi classifichiamo il medico per le prescrizioni e per l'epidemiologia e lo poniamo in una curva e gli diciamo sei al di sopra, sei al di sotto delle prescrizioni che fanno parte della media. Li informiamo ovviamente in modo molto riservato e li invitiamo a mettere in atto delle procedure anti inappropriatezza, perché anche se prescrivi poco sei inappropriato e fai un danno al cittadino, non lo fai se prescrivi nella media del secondo scienza e coscienza. Secondo punto, il secondo punto me lo riprende per cortesia. Il secondo punto è quello che poi a maggior ragione, diciamo, con informativa costo rispetto a prestazione ottenuta, diciamo, il paziente possa magari incardinare. È un fabbisogno, no? Il costo è un fabbisogno. Noi diciamo che quel fabbisogno è costato così al cittadino e quindi il cittadino sa che è costato così. Non vedo niente di strano. Prima di tutto non è un povero Cristo, è un cittadino che è curato. E non c'è nessun senso di pietismo in questo dire quanto è costato, gli diciamo semplicemente che è costato così. Io credo che lei non si offenda, Presidente, se lei dopo, quando è andato da un gommista, lei ha il conto delle gomme, quanto gli sia costato. Qui dobbiamo dire che noi diamo un servizio, lasciamo perdere l'aspetto etico è il rapporto umano fra il medico, certo, e il paziente, e l'aspetto etico è l'appropriatezza del soddisfacimento dei fabbisogni, l'aspetto etico è non iperprescrivere, l'aspetto etico è tagliare i costi impropri e non togliere i soldi inutili dalle tasche del cittadino per utilità che possono essere anche utilità che non entrano nell'etica ma entrano in alcune sfere di interesse che sono anche note. Non accuso i medici, dico che i medici possono incorrere in questo e noi li aiutiamo a non incorrere. Allora, io so che la storia ci deve lasciare, lo abbiamo in realtà beccato al volo tra due riunioni, quindi noi andiamo in pubblicità, resta con noi il presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, e si aggiunge il collega specialista su queste questioni di sanità, per me è un punto di riferimento da anni, Roberto Turno del Sole 24 Ore. Eccoci tornati qua in studio, aggiornamento della rassegna stampa europea che ho fatto in apertura come tutti i giorni, ma l'ho fatta molto più breve perché c'avevo l'assessore che mi scappava via, dovevamo beccarlo perché sennò l'assessore bresciani alla sanità lombarda non riusciamo a tampinarlo. Oggi, dal punto di vista, diciamo così, del nostro tormentone dei Doors, del The End, è una giornata molto importante in realtà, perché si tiene la seconda asta di liquidità triennale a collaterali Laschi, che è ciò che ha fatto cambiare l'atmosfera nell'euroarea da gennaio, e in attesa di questa nuova seconda maxi asta offerta dalla BCE, e il grande contributo che la BCE di Mario Draghi dà generosissima attribuzione al sistema bancario europeo di quelle munizioni di liquidità che gli erano venute meno per l'esaurirsi del mercato della liquidità a breve da parte dei fondi monetari americani. C'è grande attesa per questo giorno, c'è grande attesa perché fino a che non era passata la grande paura greca, che poi è passata per modo di dire, visto che tanto si va al fallimento pilotato e le conseguenze tecniche vedrete che saranno ben lungi dall'essere così moderate come sembrano all'ottimismo di questi giorni, ma nella realtà, poiché l'esplosione greca non c'è stata per l'euro, sono iniziate a scendere le attese per il bilancio finale, che vedremo solo a fine giornata, per questa nuova asta di liquidità triennale. All'epoca, ancora 2 settimane fa, le attese erano per oltre 1 trilione di euro, 1.000 miliardi di euro dopo i 587 della prima asta di gennaio, vedremo. Ma mi interessava segnalarvi che sul Financial Times Deutschland trovate un articolo ispirato a un'analisi di Fitch, una delle agenzie di rating, e poi anche un'analisi commentata a fianco in cui si avanzano critiche molto ficcanti esattamente al meccanismo, si chiama in gergo tecnico con l'acronimo LTRO, delle aste di liquidità, mentre la stampa generalista, tutti noi in realtà accendiamo grandi ceri a Mario Draghi e alla sua BCE, Financial Times Deutschland spara pesantemente. Perché? Perché il succo di questa critica del Financial Times Deutschland è che la banca centrale può al massimo ritardare il collasso di deboli banche, ma non può farci niente rispetto al fatto che restano deboli. Dà molto, è una specie di accanimento terapeutico. Ecco, questo è il succo della critica alle aste, che naturalmente però trascura uno degli aspetti fondamentali, che attraverso questa tassa di liquidità la BCE ha aggirato il veto tedesco ad aiuti straordinari, perché ha ridato la possibilità ai sistemi bancari privati nazionali, ciascuno, di comprare i titoli del debito pubblico del proprio paese. Nel solo mese di gennaio il sistema bancario italiano ha comprato titoli del debito pubblico italiano per 28 miliardi, è questo che fa scendere poi gli spread, perché il mercato internazionale, prima che si riappalesi e chieda titoli del debito italiano, ci sono i primissimi segni, ma insomma ce ne vuole. È ovvio che è un meccanismo anche distorcente, mentre è positivo perché c'è di nuovo una domanda rispetto all'offerta di titoli pubblici italiani a basso rendimento. Dall'altra parte, se fanno questo le banche, poi non possono dare a maggior ragione soldi alle imprese e alle famiglie. Allora, torniamo al punto di oggi e quindi volevo rapidamente chiedere, vista la risposta dell'assessore Bresciani che ci ha lasciato, l'assessore alla sanità della regione Lombardia, volevo chiedere al presidente dell'ordine dei medici che è rimasto con noi, Roberto Caro Rossi, se in qualche maniera la risposta dell'assessore non lo induceva a qualche attenuazione dei giudizi che ha dato. Cioè, ha parlato di questo atto informativo ai pazienti in Lombardia dopo i trattamenti che hanno subito, per commisurarli al ticket che pagano 10 euro tutti, al fatto che 7 su 10 sono esenti rispetto, per le loro condizioni sociali ed economiche, invece al ticket dovuto alla regione Lombardia, ma per essere più consapevoli di quello che sono costato. No, non è meglio comunque essere informati perché anche i cittadini capiscano che si possono fare molti passi avanti sul contenimento dei costi, oltre che sul miglioramento delle prestazioni, presidente Rossi? Secondo, io rimango della mia idea, nel senso che, a parte il fatto che poi non ho capito bene la citazione di medico di medicina generale, nel senso che il medico di medicina generale da questa storia rimane coinvolto parzialmente, diciamo, per quanto riguarda la prescrizione degli esami, ma non di più. Questa è una vicenda che affligge e affliggerà soprattutto i colleghi che lavorano negli ospedali. Ma al di là di questo fatto tecnico, diciamo, che non ho capito bene la citazione dell'assessore, diciamo che qui, ribadisco, c'è una confusione tra quella che deve essere la consapevolezza di un cittadino responsabile che va al Servizio Sanitario Nazionale e ne usufruisce bene e non si lamenta se non ha una prestazione, perché capisce con a fianco il suo medico che questo che sta facendo è giusto e che non deve sprecare risorse. E allora questo però si iscrive in un'educazione civica e sanitaria di più ampio respiro, che va iniziata nelle scuole e va fatta anche sulla stampa, voglio dire, ci sono mille modi per farlo. E la lettera che ti viene data in mano e che secondo me si rivelerà un boomerang, nel senso che sia per quanto riguarda i contenziosi medico-legali, sia anche il confronto fra pazienti, piuttosto, perché noi dobbiamo metterci in testa che il bene salute è un bene che diciamo tende all'infinito, nel senso che qualsiasi uomo ha la coscienza della malattia, non ha la coscienza del benessere. Ma diciamo presente che è chiaro, il fatto che ogni paziente ritenga asintoticamente di poter essere soddisfatto meglio rispetto alla cognizione che ha di sé e all'opinione che ha di sé, e rispetto al fatto che con informazioni dettagliate tenderà ad accrescersi la conflittualità, anche il contenzioso giuridico rispetto al medico, rispetto a chi ha detto sì o no a certe prestazioni, può essere. Dall'altra parte però è un fatto che i costi sanitari, noi abbiamo fatto, è la terza puntata che facciamo in 10 giorni sui costi sanitari, siamo partiti con l'analisi del CERM, il professor Pamolli, con cui coopero anch'io, che alla luce delle norme attuali ci ha portato a 2 scenari, per cui rispetto ai 106-110 tendenziali di Fondo Sanitario Nazionale quest'anno, lo scenario meno ottimistico ci porta al 2030 a 180 di tendenziale, 186 a dire la verità, è quello comunque ottimistico, ci porta a 156, il contenimento non c'è ancora, 10 regioni che sono fuori, 5 sottoposte a programmi coatti, con deficit di informazioni ancora di quest'anno nell'ambito superiore al 1 miliardo come nel Lazio, superiore ai 600 milioni come in Campania, al 500 milioni come in Calabria. Questa è la condizione nella quale l'informazione anche dal basso per il controllo costo-qualità e soprattutto anche quello comparato regione per regione, secondo me potrebbe essere utile, anche se è chiaro che le possibilità che si verifichi l'aumento di conflittualità con il medico che ci va di mezzo, segnalato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, un po' c'è. Qual è l'opinione di Roberto Turno del Sole 24 Ore? È un buon esempio di cui chiedere l'estensione dovunque nei diversi sistemi sanitari regionali secondo te, oppure i rischi a cui espone sono maggiori dei vantaggi, che a me sembrano invece evidenti? Che ne pensi? Buongiorno Oscar anzitutto e buongiorno ai tuoi ascoltatori. Mi sembra che nel citare anche gli studi di Pamolli hai toccato un po' quello che è il nervo scoperto di tutto. È naturale che la decisione della Lombardia porti a mettere in campo delle cautele, intendo dire, di un paziente grave in fin di vita o comunque irrecuperabile, non credo che ami sentirsi dire mi sei costato tanto. Questo porta delle cautele, porta, come dire, la considerazione di casi gravi e tutto quanto. Tuttavia credo che al di là delle cautele serva in sanità, come sta accadendo fortunatamente, credo per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, una presa di coscienza generale, complessiva di quella che è la situazione. Non per sparare sulla Croce Rossa, Oscar, stamattina apro le agenzie, la prima notizia che vedo arriva lì dalla Calabria, dove la Guardia di Finanza ha scoperto e ha denunciato alla Corte dei Conti proprio questa mattina un danno erariale per 20 milioni di euro a carico di 30 dirigenti. Ed è uno dei tanti, frequentissimi casi che stanno accadendo. Se mettiamo un po' in fila tutti i dati che tu hai riassunto nell'esplosione della spesa a bocce ferme, noi in 10 anni abbiamo accumulato nel sistema del sanitario un disavanzo di 30 miliardi di euro. C'è un credito delle imprese verso il sistema sanitario che vale intorno ai 20-30 miliardi di euro, questa è una cifra che non è molto chiara, ma che accade? Accade che ci stanno ASL, il caso limite che è quello dell'ASL 1 di Napoli, quella di Napoli Centro, che paga in 1600 giorni. Voglio dire, se mi pagassero lo stipendio dopo 4 anni e mezzo non sarei molto contento. Direi di no. Ecco, e sono tutti questi casi, questo non, ripeto, per sparare sulla Croce Rossa, perché il sistema sanitario nazionale è fatto anche di tante grandi eccellenze di struttura, di assistenza. E dove, Roberto, io ti dico, lo dico questo punto da paziente volontario, dove per eccellenze a volte, naturalmente non vorrei essere equivocato da chi mi ascolta, non c'è solo la frontiera più avanzata, quindi la capacità di usare sperimentazione di farmaci con tecniche di intervento non invasive, cioè, l'eccellenza a volte è semplicemente fare il meglio del meglio possibile e tante volte anche l'impossibile con la ristrettezza dei mezzi e delle dotazioni o a volte la vecchiezza degli strumenti di cui si è a disposizione, perché anche quella eccellenza, i salti mortali, ci sono tanti in grado dal punto di vista sia di chi dirige le aziende ospedaliere e sanitarie, sia di chi poi sta in prima linea rispetto al paziente di farlo, e eccellenza anche quello. Certo però i fenomeni di acqua imbarcata a tonnellate sotto la linea di galleggiamento nel sistema sanitario, per la pervasibilità della politica, per il fatto che gli acquisti ognuno vuole fare i suoi, e che quindi poi ci sono anche imprese che si organizzano intorno a questo. Io su questo voglio essere sincero, questa è la radio di Confindustria e l'emergenza è quella che ha appena detto Roberto Turno, cioè la parte di debito sanitario, che è la parte consistente più del 50% del totale del debito che lo Stato naturalmente non fa emergere e non paga alle aziende. Naturalmente bisogna essere duri e inflessibili con quella parte di aziende che si sono organizzate e prosperano al riparo dei prezzi, tariffe amministrate, finte gare e acquisizioni opache, perché naturalmente significa che stanno fuori dalla concorrenza, danneggiano quelle che stanno pienamente in regola con i dipendenti, il fisco, gli adempimenti amministrativi eccetera eccetera, e semplicemente sono quel pezzo d'Italia privata che è insieme alla casta politico-amministrativa l'espressione dei milioni di italiani che ci guadagnano da uno Stato inefficiente, perché questa è la mia risposta ogni qualvolta qualcuno mi dice è la casta e la politica. Sì, ci sono i tecnocrati pubblici e sono tanti, e però c'è anche poi una bella fetta di società italiana che prospera in tutto questo, e io capisco che a questo punto però poi il Presidente dell'Ordine dei Medici dice sì, ho capito, però voi volete far passare un'informativa dal basso come una pressione sul meccanismo per fare emergere la trasparenza e l'efficienza dei costi, ma qui di mezzo c'è il trattamento di questo bene particolare che è la salute ed è la vita di ciascuno, che non si può ridurre solo a numeri, e io lo capisco, però noi pensiamo che quando i numeri non funzionano così tanto come in sanità, iniziative come questo, fossi io ne chiederei la diffusione in tutto il sistema. Dunque, ripartono i Doors, ma non mi aspettavo, c'è una raffica di insulti, non so, evidentemente devo aver toccato qualche nero scoperto di medici, perché c'è gente che mi dice che sono patetico, coglione, rimbecillito, che non connetto la lingua ai neuroni. Io vorrei che questi ascoltatori che non si moderano sul telefonino sparissero da questa radio, sentitene un'altra, oppure non sentite me, perché i vostri insulti, francamente, non è che mi irritano, mi sembra che stiamo sprecando tempo, quando c'è gente che ha il cervello da buttare e non si dice se non a chi insulta, non c'entra niente con la legittimità delle opinioni diverse, e l'idea che una radio che fa approfondimento o il conduttore lo deve cacciare oppure deve cacciare questi ascoltatori, quelli che insultano, e sono tanti oggi, non ho capito, evidentemente ci vuole essere un po' di medici organizzati opachi, per così dire, mi dispiace dirlo perché non li confondo con i medici, credo di saperne un pochino di sanità, non troppo, non faccio il ministro, non faccio l'assessore, però chi mi insulta ne sa sicuramente meno di me, oppure ha le mani sporche e lorde perché è ladro, ladro di Stato. Ci sono i ladri di Stato anche nella sanità, e come paziente, come cittadino e come giornalista mi fanno più schifo degli altri. Se mi insultano sono felice, vuol dire che c'è qualcuno sulle loro tracce, e visto quello che ci costano decine di miliardi, per conto mio loro sì, dovrebbero avere un posto solo dopo un garantistico processo, la galera per i ladri di Stato, certamente loro sono la parte più schifosa. Chi lucra sul denaro pubblico della sanità pubblica, sulle spalle dei pazienti, secondo me dovrebbe passare decenni in carcere. Potete insultarmi quanto volete, ma questa è la mia linea, e mi dispiace che tanti di voi abbiano i nervi così evidentemente scoperti da reagire con gli insulti. Sentiamo le vostre telefonate. Antonio dalla provincia di Cremona, prego Antonio. Buongiorno dottor Giannino. Volevo inserirmi nella sua discussione perché quando ho sentito la lista della spesa della malattia mi sono un po' indignato, poi ho riflettuto e ho detto non riuscirò sicuramente nel mio piccolo a smuovere niente, quindi ognuno di noi deve fare di necessità virtù, ragionare in termini pratici, voglio dire anche i detrattori che sono contro questa idea della lista della spesa della malattia, possono pensare e trarre dei benefici, nel senso che per chi l'ha ideata potrebbe diventare un'arma a doppio taglio. No, no, sono d'accordo con lei, effettivamente potrebbe diventare un'arma a doppio taglio, perché a quel punto il cittadino dice come, tutto questo rispetto a poi quello che ho ottenuto. Però da questo punto di vista, per me, che capisco, ripeto, le obiezioni dei medici, non le sbatto via, non le liquido dicendo volete rimanere opachi, perché non è questo il punto di vista dei medici che ci ha spiegato il presidente dell'ordine, però è proprio come dice lei, potrebbe alla lunga aiutare a capire meglio tutte le aree in cui dietro la sanità ci sono robe del tutto improprio, essere a doppio taglio per chi ha la testa della sanità. Ma per questo le chiedo, Antonio, non è tanto più apprezzabile piuttosto che tale da farla indignare, come lei ha detto che è stata la sua prima reazione? Guardi, dottor Giannino, volevo concludere due parole solo per dire questo. Se la lista della spesa della malattia è analitica, noi potremmo sapere quanto costa un cerotto a Cremona, quanto costa un cerotto a Mantova, quanto costa una siringa, quanto non costa. Certo. La lista potrebbe permetterci di togliere, tarpare le ali a quelli che lei giustamente definisce i ladri di Stato. Quindi io mi auguro francamente che sia proprio così. Più analitica è, meglio è. Il problema è se adesso per via delle polemiche non la fanno analitica, e allora lì inizia a servire meno, secondo me. Vedremo, ve ne informeremo. Anna Giulia da Roma, che pensa? Ma io buongiorno, ho espresso il mio parere in quanto io penso sulla lettera della Lombardia che è stata inviata agli utenti. Gli utenti in realtà non è che fanno delle prestazioni che decidono da fare, tutte le prestazioni passano attraverso un medico che le prescrive, certo. Anche quello ospedaliere, a meno che non c'è un'emergenza, no? Un pronto soccorso. Quindi voglio dire, se c'è una situazione di prestazione inappropriata, è il medico che dovrebbe fare cultura, no? E quindi dovrebbe anche, no, mi riferivo all'ordine dei medici che dice dobbiamo educare l'utente. L'utente non va educato, perché l'utente, se chiede una prestazione che è impropria, il medico non gliela deve dare, punto. Allora, il discorso è questo, cioè, quindi sicuramente il fatto di mandare all'utente il costo può servire per vedere, io faccio una stessa prestazione magari in due strutture sanitarie diverse, certo. Dico però questa è costata di più e qualitativamente è andata meglio, no? Diciamo come mia percezione poi. Però lei dice alla fine è il medico che deve essere il presidio per evitare che ci siano troppe prestazioni o prestazioni sbagliate. Questo è come quando, mi scusi, io quando vedo i servizi al telegiornale che i falsi invalidi, ma chi è che ha avuto a che fare con l'invalidità vera sa che noi abbiamo fatto file contro file, visite contro visite. Lo so, si figura. Allora non mi dica la persona che è così, ditemi la commissione che ha dichiarato quel falso invalidi, ditemi. Sono d'accordo. Anche se non ho capito bene se lei è favorevole o contraria, però è problematica, per così dire. Lei dice i medici e chi dice sì o no alla prestazione è loro, forse aiuta di più anche saperlo. Paolo da Torino invece che dice? Buongiorno. A tutti gli ospiti, al concittadino Giannino. Dunque, io sono un medico che ha avuto la titolarità su tutta la medicina territoriale, guardia medica, medicina generale 118, più 10 anni di pronto soccorso. Io non credo che funzioni il deterrente, perché la gente conosce benissimo i costi delle prestazioni sanitarie, solo che essendo un servizio ancora abbastanza gratuito, usa e soprattutto abusa di questo servizio a secondo dei propri comodi, intasando per esempio i pronto soccorsi. Perché lì si sa che nonostante il 70-80% dei codici siano verdi, quindi non avrebbero dovuto afferire un pronto soccorso, lì vanno. Hanno il servizio e poi il 30% che pagano, come dovrebbe essere poi in Lombardia, alla fine è comunque conveniente, perché loro hanno la prestazione in tempo reale. Allora io Paolo, mi dispiace, ma il tempo è finito e qui io devo essere preciso, quindi più favorevole che contrario, un bilancio aperto, continueremo a informarvene, intanto l'appuntamento a domani. Radio 24. La passione si sente.